L'assemblea di mercoledì 6 settembre, che inizierà alle 7, probabilmente con una cena, quindi il dibattito vero e proprio inizierà alle 8, ma invitiamo tutti a essere lì già dalle 7 per poter discutere e parlare anche al di fuori, diciamo, dell'assemblea, quindi creare socialità già da dinamiche che non sono per forza solo quelle assembleari. Non è altro che il proseguo della battaglia di XM iniziata 2 anni fa, quando arrivò XM la famosa lettera nel quale il comune ci comunicava l'intenzione di voler rientrare in possesso dei locali che avrebbero dovuto appunto essere lasciati vuoti da cose e persone entro la data del 30 giugno 2017. Nel corso di questi 2 anni appunto abbiamo, diciamo, portato avanti la nostra battaglia per rimanere negli spazi di XM24, soprattutto di fronte al fatto che non c'era un vero e proprio progetto, diciamo, definito, che, diciamo, che giustificava il fatto che XM se ne sarebbe dovuto andare da quegli spazi. Ne abbiamo sentite varie in questi anni, dalla prima sparata della caserma dei carabinieri subito dopo l'arrivo della lettera, poi smentita dallo stesso Ministero dell'Interno, passando per il progetto di una casa della cultura, poi dopo di una casa delle associazioni, poi un centro di lavoro per disabili e recentemente l'ultimo progetto che il comune, diciamo, ha dichiarato voler mettere nei locali attualmente occupati dall'XM è quello di un co-housing. Quindi questa chiamata vuole essere anzitutto per informare la cittadinanza di questo nuovo progetto del comune, anche perché ci sembra che sia stato, diciamo, dichiarato pubblicamente ma non così tanto discusso, e quindi siamo abbastanza consci che tante persone non conoscono questo nuovo progetto appunto per XM24, e discutere appunto insieme ai cittadini di questa nuova progettualità del co-housing. Ci teniamo a dire che non è che siamo contro il co-housing, anzi, in un modo sempre più atomizzato, ci sembra un modo sicuramente più sociale di vivere, e ben venga che il comune proponga, diciamo, un'edilizia semipopolare, perché poi di quello si tratterebbe questo co-housing, ma quello che ci chiediamo è perché farlo proprio negli spazi di XM, perché aprire un nuovo cantiere in una zona che è già sventrata da cantieri aperti e mai terminati, vedi il fallimento dei faraonici progetti speculativi della trilogia navile, vedi appunto l'edilizia abitativa popolare che in quell'area avrebbe dovuto essere costruita e che non è mai stata costruita, vedi le case dell'Acer, quelle proprio di fronte XM che sono state ultimate ormai da un anno e sono ancora vuote e non abitate da persone. Quindi ci chiediamo perché fare questo tipo di progetto, che magari è che sicuramente è anche un progetto valido per quanto ci riguarda, ma perché farlo negli spazi di XM? Perché togliere quello che da 17 anni è uno spazio attraversato da migliaia di persone, uno spazio pubblico, per rendere uno spazio di fatto, come dire, ad uso abitativo e quindi in un certo qual modo privatizzato, comunque uno spazio che potrebbe essere fruito da poche persone a fronte degli migliaia che lo attraversano attualmente? Quindi perché togliere quello che dopo 17 anni è quasi diventato un bene pubblico ed è una risorsa in città, in quartiere, una risorsa di socialità, di creatività, di laboratori gratuiti? Questo progetto potrebbe benissimo essere fatto altrove, magari, perché no, proprio intorno nella zona di XM, e così il quartiere avrebbe allo stesso tempo una tipologia abitativa come quella del co-housing, che effettivamente è una tipologia sociale e che è un esempio, diciamo, positivo come tipologia abitativa, ma potrebbe avere anche uno spazio, una risorsa importante di cultura e di socialità come quella appunto di XM24. Ti volevo chiedere da cosa è scaturito questo bisogno di, diciamo, di aprire la vostra assemblea a tutta la cittadinanza? Beh, il bisogno è quello, diciamo, rientra nel percorso che XM ha sempre fatto, quindi un percorso aperto, un percorso di comunicazione e di coinvolgimento di tutta la città, perché noi crediamo che XM sia parte della città e la città sia essa stessa parte di XM, quindi proprio in contrapposizione invece ai percorsi che apre il comune, questi falsi percorsi partecipativi come l'ultimo percorso delle assemblee territoriali attraverso i quali hanno voluto mettere a bando alcuni spazi in città, noi richiamiamo a un percorso veramente dal basso, veramente allargato, in cui c'è la città a decidere con XM, insieme a XM, per XM, in quanto parte di XM, quale debba essere la destinazione d'uso dell'ex spazio sottoscritto e anche di altri spazi in città. La città è contenta che uno spazio che poteva essere fruito da tutti quanti diventerà uno spazio abitativo e quindi fruibile da pochi? La città che cosa vuole? Vuole anche la città, come vogliamo noi, che XM rimanga lì, che XM continui a vivere, che XM continui a rappresentare per la città e per il quartiere uno spazio di socialità, uno spazio di cultura, uno spazio di laboratori aperti gratuiti, un'alternativa, diciamo, al mondo che c'è? Quindi questa è la nostra, diciamo, volontà di allargare questo percorso, in realtà una volontà che abbiamo sempre espresso, quella di appunto appunto includere la città, perché XM è uno spazio pubblico autogestito, già nel nome che ci diamo c'è questa tensione verso il coinvolgere la città e gli altri nelle decisioni, e la cosa su cui ci concentreremo, diciamo, in questa nuova battaglia è proprio questo cambio di destinazione d'uso di XM24. Noi non vogliamo che sia uno spazio che diventi uno spazio abitativo, uno spazio per pochi, noi vogliamo che rimanga uno spazio per tanti e che i co-housing si facciano, sì, ma si facciano appunto in altri spazi, spazi che sono veramente abbandonati, spazi che sono veramente vuoti, non uno spazio che già è vivo, già esiste e già crea un sacco di socialità e un sacco di inclusione in città. E quindi non vogliamo che a decidere sia semplicemente il comune, sia il comune dall'alto in maniera unilaterale come ha fatto fino adesso, perché ogni progetto da loro presentato, dalla casa delle associazioni a quelle delle culture, a quest'ultimo del co-housing, sono progetti che sono stati calati dall'altro, dall'alto da loro, e se il progetto di una casa delle culture andava in un certo qual modo verso un senso di un progetto che un'utilizzazione di quello spazio che rimaneva comunque sociale, quest'ultimo progetto che il comune presenta per XM, ovvero il co-housing, è la negazione di appunto creare uno spazio veramente di socialità. In questi mesi voi avete partecipato a vari incontri con il comune, con la giunta, e volevamo sapere un po' come sono andati questi incontri, se hanno portato a qualcosa o meno. Ma sì, più che vari incontri direi che c'è stato in realtà un solo incontro, diciamo, un po' più diretto, in cui ci si è seduti effettivamente con i rappresentanti della giunta, in cui di fatto la posizione della giunta è rimasta la stessa che durante tutti questi anni, cioè non avevano idea di che cosa fare su XM, ma l'idea chiara ce l'avevano sul fatto che XM da lì se ne deve andare, quindi su questo la loro posizione non è cambiata. Quello che è cambiato è stato un po' il contesto politico intorno, banalmente da marzo dell'anno scorso c'è un altro tipo di governo che non è certo il governo del PD, e quindi diciamo la giunta rispetto a questo si presenta adesso davanti a XM dicendo: noi comunque non vogliamo che voi da lì ve ne andate, ma non vogliamo uno sgombero coatto, non vogliamo uno sgombero, diciamo, per le ruspe di Salvini o per la cenere mandata da Salvini, e quindi vi proponiamo di cambiare, di andare in un altro spazio, cercheremo per voi un altro spazio, e presentano questa soluzione un po' come appunto l'unica alternativa alle ruspe di Salvini. Dopodiché ad oggi in realtà di proposte serie e concrete XM non ne sono state fatte, non ne sono state fatte neanche di maniera diretta, diciamo, di proposte per uno spazio alternativo. L'unica proposta che è uscita diciamo in maniera indiretta attraverso questo bando appunto che è uscito non troppo tempo fa per l'assegnazione di alcuni spazi in città, tra cui il Link, l'ex centrale del latte, il civico 12 di via Fioravanti, che si trova nella stessa stecca appunto in cui attualmente si trova XM. Quindi in realtà appunto non è che c'è stato un vero e proprio dialogo al di là di questo incontro di appunto questa postura, ovvero voi da lì ve ne dovete andare, e se non ve ne volete andare l'unica alternativa a non farvi sgomberare è che vi accettiate di trasferirvi in un altro spazio. Però appunto ripeto, questo spazio ancora non c'è, nel senso che anche i spazi proposti attraverso questo bando, poi magari si può discutere appunto di modalità di questo bando e delle varie criticità, non sono comunque degli spazi inadeguati quantomeno a contenere la pluralità, la diversità e la ricchezza delle esperienze di XM. Ultima domanda: che cosa si intende per rievoluzione di XM, quello che è contenuto, diciamo, nella presentazione di questa assemblea? La rievoluzione di XM non è altro che appunto l'ennesima apertura di XM verso la città, l'ennesima chiamata di XM a questa città, parte di XM, a prendere posizione e a dire che una volta per tutte si debba cambiare la destinazione d'uso di questo spazio, che questo spazio deve diventare uno spazio pubblico per la città, che non ci devono essere più discussioni su questo, e per ciò pare c'è bisogno di tantissime persone, quindi XM è pronto ad aprirsi, ad allargare le proprie orizzonti, ad allargare le proprie vedute, ad includere il più possibile di realtà cittadine, perché c'è bisogno di tutti quanti per poter far vivere uno spazio come questo, c'è bisogno di tutti quanti per portare avanti battaglie che vanno anche al di là di XM, perché degli spazi cittadini più o meno vuoti o più o meno occupati vengano una volta per tutti riconosciuti come un valore, come una risorsa, e quindi non venga più messa in discussione la loro esistenza.